24 mattino di Alessandro Milan. Cari ascoltatori, alle 7:31 minuti, eccoci qua, riparte una nuova settimana di 24 mattino. Se siete in macchina e siete nel grande gelo di gran parte d'Italia, andate piano. Sappiate che in Trentino ieri ha fatto meno 47 gradi, non voglio neanche sapere dove, così c'è scritto sul giornale, sul Corriere della Sera per la precisione. E, ebbene, noi ripartiamo dai nostri sondaggi che potete già votare su radio24.it o sole24ore.com. Oggi parliamo di inquinamento nelle città italiane. Ieri a Milano c'è stato il blocco, altre città seguono questa linea, vi chiediamo: ma il blocco delle auto, anche temporaneo, nelle città inquinate, è un provvedimento giusto? È un provvedimento che vi piace? È un provvedimento che serve? Oppure no? Molti state già votando, perché il sondaggio è online da venerdì sera. Il 68% di voi dice sì, provvedimento giusto. Ne parleremo alle 8:30, tra un'ora esatta. Ora andiamo a vedere invece cosa propongono i giornali in edicola. In primo piano. L'apertura più scelta, come nel nostro notiziario, è quello dell'appello del Santo Padre in difesa dei posti di lavoro. Il Papa in difesa del lavoro, così Corriere della Sera. Ecco l'Italia dei senza lavoro, appello del Papa per Fiat e Alcoa. Questo è il titolo invece di Repubblica, di apertura, così come l'Unità. Ultima spiaggia, ci sono due operai ritratti proprio sullo sfondo della cupola di San Pietro, che è inconfondibile, l'Angelus degli operai. Il Papa cita i drammi dell'Alcoa di Termini Imerese, fare di tutto per salvare i posti di lavoro. C'è chi sceglie un po' singolarmente, come il Messaggero, proprio il freddo, sfidano l'allarme, sepolti dalla valanga. Ah, ecco perché muoiono due escursionisti romani, salvo un terzo. Colonie, ostacolo per la pace, invece è Berlusconi che oggi inizia la visita in Israele. Questa è l'apertura della Stampa, vedremo anche quella del Giornale, ma insomma inizierei dal tema principale che trovate sui giornali sviluppato, quello appunto dell'appello del Santo Padre sui posti di lavoro. Tra l'altro inizierei dalla Stampa, che spiega, differentemente agli altri giornali, il retroscena di come è nato questa citazione all'Angelus. Il pressing ispirato dal vescovo di Ivrea, così scrive Giacomo Galeazzi sulla Stampa. Rigo Miglio è il responsabile della CEI per il welfare. Ebbene, scrive, i timori della Chiesa italiana proposti al dibattito nell'Episcopato dal vescovo di Ivrea e responsabile del welfare per la CEI, Rigo Miglio, è stato rilanciato dai mass media e raccolto come spunto di possibile intervento papale dal responsabile dell'equipe che cura i discorsi di Benedetto XVI. Come avviene per normale procedura, il prelato veneto Giampiero Gloder, capo dei ghostwriters, cioè quelli che scrivono i discorsi, che coadiuvano il Papa nella stesura dei suoi testi, ne ha parlato con il sostituto della Segreteria di Stato Fernando Filoni. E dalla prefettura della Casa Pontificia era già stata segnalata la presenza a San Pietro dei lavoratori dell'Alcoa. Ecco perché è nato, insomma, questa volontà di Papa Benedetto XVI di fare questo appello. Ci sono già sviluppi, interviste, commenti a questo tutelare i posti di lavoro che nell'Angelus ha detto il Papa. Per esempio, il Corriere della Sera intanto raccoglie il pensiero di Ettore Gotti Tedeschi, che è banchiere, a capo tra l'altro dello IOR, è anche commentatore per l'Osservatore Romano, e ieri proprio sull'Osservatore Romano citava questa proposta. Per esempio, si è chiesto Gotti Tedeschi, è necessaria sostanzialmente l'immigrazione a bilanciare l'indisponibilità sempre più diffusa nei paesi del benessere a svolgere attività considerate socialmente non qualificanti. Ci si è chiesto se sia giusto ed educativo concedere i sussidi di disoccupazione a quelle persone che non siano disponibili a queste attività. Ecco, allora il Corriere della Sera lancia così: il presidente dello IOR, togliere i sussidi a chi rifiuta i lavori umili, perché questa è l'altra faccia del lavoro, quello che si dice sempre, insomma, gli italiani non vogliono fare più un certo tipo di una certa tipologia di lavori che in realtà ci sono a disposizione. Tra l'altro, il Corriere della Sera con Paola Pica a pagina 3 intervista Guido Alberto Guidi, una lunga carriera ai vertici di Confindustria, oggi è presidente della Federazione delle Imprese Elettroniche ed Elettromeccaniche, che dice: noi proviamo a resistere, noi imprenditori ovviamente, ma niente sarà come prima. Siamo in un territorio inesplorato e non mappato, un mondo nuovo. Hic sunt leones, avrebbero scritto gli antichi romani. Serve uno sforzo straordinario. Dice Guidi: sono abbastanza anziano per capire ciò che dice il Papa va meditato in profondità e non discusso, ma la mia preoccupazione è che il Santo Padre debba rivolgere molti nuovi appelli in futuro. E poi sul ruolo degli imprenditori, perché chiaramente quello che ha detto il Santo Padre richiama il ruolo degli imprenditori a livello centrale. Non solo le dico che io non ho licenziato nessuno, dice Guidi, mi sono limitato a fare un ricorso contenuto alla cassa integrazione, ma le posso assicurare che gli imprenditori che conosco, non sono pochi, stanno tutti resistendo. Nessuno licenzia e qualcuno, essi al contrario, fanno fatica a guardare in faccia alla realtà. Poi insomma innovazione, ricerca, questi sono gli investimenti necessari per Guido Alberto Guidi per resistere in questo momento di difficoltà. Tra l'altro, sul tema del lavoro si concentra anche il Sole 24 Ore, che sapete nell'edizione del lunedì non è legato alla stretta cronaca perché viene chiuso il venerdì. Per cui non ci sono, diciamo, le parole del Papa, ma c'è un'interessante ricerca della Fondazione Moressa sulla crisi del lavoro e gli immigrati, stranieri più precari e disoccupati. Uno su quattro è part-time o a termine, vale a dire cresce la disoccupazione, le donne reggono meglio degli uomini, mentre tra chi lavora un quarto è comunque precario. Ed è il nord-ovest, diciamo, la frontiera che preoccupa. È l'ultima fotografia appunto scantata dalla Fondazione Leone Moressa, che ha analizzato i dati Istat. Chi ha colpito soprattutto? Beh, la crisi ha picchiato duro sulle fasce più deboli, soprattutto sugli immigrati, che sono da sempre una delle categorie più esposte. Questo spiega al Sole 24 Ore Valeria Benvenuti, che è la ricercatrice della Fondazione Moressa, una ricercatrice che ha fatto questo studio, ha analizzato questi dati che trovate sul Sole 24 Ore. Sempre sul fronte del lavoro voglio segnalare e della situazione economica che il Corriere della Sera intervista Guglielmo Epifani, leader della CGIL, che dice: un passo ora del governo, vale a dire sgravio da 500 euro e ritiriamo lo sciopero, perché la CGIL ha proclamato lo sciopero per il 12 marzo, uno sciopero che confermiamo per sollecitare la riforma del fisco e immediati sgravi a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, dice Epifani in questa intervista a Enrico Marro. È chiaro che però se il governo aprisse un tavolo, prendesse l'impegno a restituire subito una parte del prelievo fiscale, aumentare il massimale della cassa integrazione, allora la CGIL ne trarrebbe le conseguenze. Insomma, dice, non c'è preclusione a rivedere lo sciopero. Eccola qui per esempio la proposta concreta: ci vuole una restituzione in busta paga e sulle pensioni che sia in media di 500 euro netti a testa entro aprile attraverso una detrazione aggiuntiva. Poi bisogna impostare una riforma che riequilibri il carico fiscale. Non è possibile che siamo l'unico paese senza una tassa sulle grandi fortune. Questo è il tema che ritorna. È necessaria un'aliquota unica del 20% sulle rendite finanziarie, mentre sempre al 20% va abbassata la prima aliquota IRPEF, che ora è del 23%. Insomma, queste sono le proposte di Epifani, come dire, e vediamo se possiamo così rivedere lo sciopero, rientrare nello sciopero. Detto che di tasse ha parlato un pochino anche Silvio Berlusconi, il Premier oggi è in visita con una serie di ministri, peraltro per una 3 giorni in Israele. Ha concesso un'intervista ad Arez, che è uno dei quotidiani più diffusi in Israele, e ha parlato anche, ovviamente ha parlato molto della visita, dell'importanza della visita, delle colonie israeliane. Ha detto: Israele limiti le colonie nei territori palestinesi, insomma, ma ha anche parlato, ha fatto un accenno alla situazione italiana e ha detto: la mia missione è quella di ridurre le tasse, bisogna riuscire a diminuire la pressione fiscale, a portare l'imposta sui redditi a un livello accettabile che consenta una nuova amicizia leale tra cittadino e Stato. Questo è quello che ha concesso, diciamo, nell'intervista ampiamente dedicata invece al tema internazionale della sua visita, ma anche in questa risposta dedicata alla situazione italiana. Insomma, situazione lavoro, situazione di difficoltà, di crisi economica, questi sono i temi che trovate più in evidenza sui giornali italiani di oggi. Per rimanere nel campo dell'economia, per la verità economia e finanza, segnalo due cose, una dal Corriere e una da Repubblica. L'abbiamo sentita anche in GR24 sul Corriere. Dossier illegali, Telecom e Pirelli patteggiano. È una vicenda raccontata solo dal Corriere, da Luigi Ferrarella, per la precisione. Sostanzialmente Telecom e Pirelli non hanno ammesso alcuna responsabilità, ma hanno chiesto di patteggiare l'accusa di corruzione nel processo per l'attività di dossieraggio illecito della security di Giuliano Tavaroli, e lo hanno fatto offrendo 7 milioni e mezzo di euro come risarcimento a 3 ministeri e ai dipendenti schedati, e la Procura di Milano ha accettato. In tal modo le due aziende escono dall'udienza preliminare in corso dal 31 marzo del 2009 per decidere se rinviare a giudizio 36 persone indagate per migliaia di fascicoli illegali. Dossier illegali, Telecom e Pirelli patteggiano, si legge tutta la cronaca a pagina 21, la Procura di Milano dà appunto il consenso, le due aziende erano indagate per corruzione, usciranno così dall'udienza preliminare, non hanno ammesso alcuna responsabilità ma hanno offerto 7 milioni e mezzo di euro. L'altra notizia che c'è solo in esclusiva su Repubblica e riguarda la finanza, i riassetti finanziari, la scrive Massimo Giannini, che è il vice direttore, in prima pagina. Geronzi verso le generali, il potere economico si blinda. Scrive Giannini: nel capitalismo italiano c'è una bomba innescata, se esplodesse rivoluzionerebbe in modo profondo, anche se gattopardesco, la fisionomia del potere economico nel paese. Nella prossima primavera Cesare Geronzi potrebbe diventare presidente delle generali con la benedizione di Silvio Berlusconi. Il momento è propizio, l'opinione pubblica è distratta, da una parte le faide sulle regionali e lo scontro sulla giustizia, dall'altra la grottesca corrida spagnola su Telecom. E allora, dunque, scrive Massimo Giannini in questo lungo articolo che trovate a pagina 9 di Retroscena, molto finanziario, insomma, per chi ha dentro anche queste tematiche finanziarie, di equilibri di potere, delle società e delle aziende italiane, Geronzi si appresta all'arrocco perfetto. Ovviamente, scrive Giannini, qual è il problema? Che tutto ruota attorno ai suoi problemi giudiziari, perché l'attuale presidente di Mediobanca è stato prosciolto per il crack Federconsorzi, è stato assolto in appello per il crack Italcase dopo essere stato condannato in primo grado, è indagato per usura aggravata e concorso in bancarotta fraudolenta per il crack Parmalat-Ciappazzi, il processo in corso a Parma è molto insidioso, è indagato per frode nel crack Cirio. Insomma, la sua posizione di banchiere diventerebbe insostenibile se qualcuno dei procedimenti in corso dovesse portare a un'altra condanna. Ecco allora che la legge bancaria, se la legge bancaria non perdona, nelle assicurazioni la legislazione è più lasca. Per questo Geronzi da mesi in privato si tiene aperta la porta delle generali. Insomma, ripeto, poi se volete tutto il retroscena è ancora più dettagliato a pagina 9 di Repubblica. In primo piano, regioni ai saldi delle leggi. Voglio trattare la politica partendo dal Sole 24 Ore di oggi. Ho letto il titolo di apertura di prima pagina. Beh, il Sole 24 Ore fa una cosa molto meritoria oggi, perché si avvicinano le regionali e beh, che sta succedendo? Hanno analizzato come al solito i colleghi del Sole quello che è successo nell'ultimo anno nelle regioni dove si va a votare c'è stato un boom di norme approvate, e tra queste norme molte sono norme e misure elettorali, insomma gli sconti IRPEF di Veneto e Puglia, le stabilizzazioni di Marche e Liguria. Gianni Trovati e Giovanni Parente a pagina 3 le analizzano tutti i provvedimenti, che insomma inizia così l'articolo: c'era una volta la Prima Repubblica e le sue leggi mani. mancia alla vigilia delle elezioni, venivano chiamate così perché erano leggi mancia, cioè venivano distribuiti dei soldi un po' a tutti i parlamentari, cioè nel senso, come dire, scegliete dove devono essere destinati questi soldi. Ovviamente ogni parlamentare dava, che ne so, chi una scuola al paese del proprio collegio elettorale, chi un asilo, chi dei soldi alla sagra della salsiccia e così via. Ebbene, anche alle regionali, anche nelle regioni è così, insomma. Sostanzialmente il termometro elettorale ha un metro quasi inequivocabile, scrive oggi Il Sole. Il numero di leggi approvate nell'ultimo anno, le 13 regioni al voto hanno messo insieme oltre 500 provvedimenti con un colpo di acceleratore notevole se paragonato al 2006, quando le leggi invece erano state 402. Insomma, si avvicinano le elezioni e si approvano le leggi, spesso anche leggi che danno magari qualche contributo ai cittadini per cercare poi di accaparrarsene il voto. La politica è anche questo, non bisogna essere scandalizzati. Tra l'altro a pagina 2 invece buone uscite e pensioni più generose che in Parlamento, un altro fenomeno che fa arrabbiare molto chi è all'ascolto e che magari sta a meno 47 gradi in Trentino. I vitalizi di chi non verrà confermato in regione e che ha maturato appunto il vitalizio, quindi che ne so, Formigoni, 15 anni passati in cima al Pirellone, ovviamente non dovesse essere confermato, ma comunque darebbero diritto a una buona uscita lorda di 160.000 euro più una pensione attorno ai 5.000 euro. Antonio Bassolino, che non sarà più candidato, saluterà la poltrona con un assegno da circa 100.000 euro maturato in due mandati, una pensione che pesa il 45% delle sue indennità mensili lorde. Giancarlo Galan invece in Veneto si consolerà con un bonus di 10 mensilità lorde e una pensione pari al 47% delle indennità, ma la prenderà solo nel 2021 a 65 anni. Per Piero Marrazzo invece nel Lazio bastano 55 anni di età per far partire la pensione da ex governatore. Il primo assegno, il 30% dell'indennità maturata nell'unico mandato della guida della regione, gli arriverà nel 2013, preceduto da una liquidazione pari a 5 indennità mensili. Insomma, ogni regione poi fa anche a modo suo. Trovate tutto sul Sole. Per quel che riguarda la politica c'è il pressing su Romano Prodi. Romano accetti, così può salvare il partito. Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera intervista Angelo Rovati, amico del cuore di Prodi, che dice: scenda in campo e faccia il sindaco di Bologna, so già che quando leggerà quello che sto per dire mi manderà a stendere e sua moglie Flavia mi toglierà il saluto, ma l'idea di sindaco di Bologna a Prodi è un'opportunità straordinaria, dice Angelo Rovati, suo grande amico. Sull'Unità invece parla Vincenzo De Luca, che è candidato sindaco di Salerno, candidato PD in campagna, che dice: sì, è vero, ho due reati di concussione di cui devo rispondere, ma sono situazioni in cui ho difeso gli operai e dunque rifarei tutto, non accetto lezioni di moralità da nessuno. La politica si anima perché la settimana del legittimo impedimento dovrebbe essere approvato tra domani, mercoledì e giovedì, insomma, ma che noia, un po' che noia. Veniamo un po' agli spunti di cronaca per andare a concludere. Lunedì magari iniziamo la settimana con anche un po' di sorriso sulle labbra. Beh, intanto c'è la questione dello smog. Allora, questo provvedimento preso da Milano ieri, oggi Torino, Torino con qualche blocco, insomma le città che bloccano il traffico fanno una cosa giusta, sì o no? Dovete votare su radio24.it, poi ne parliamo alle 8.30. Sulla Stampa oggi mito, cioè Milano-Torino, uniti contro lo smog. Torino propone un summit con i comuni padani per combattere l'inquinamento. Di la verità il titolo è un po' più polemico. Mito, uniti solo contro lo smog. Cioè almeno sullo smog l'assessore all'ambiente di Torino almeno ha detto: uniamoci con Milano, studiamo qualcosa insieme, perché qua bisogna fare qualcosa contro le città braccate dallo smog. Leggo dal Messaggero una storia straordinaria. Ve lo ricordate quello che ha vinto i 147 milioni al Superenalotto a Bagnone, in provincia di Massa, letteralmente poi scomparso? Prima si diceva che era uno, poi l'altro del paese, poi il terzo, poi il quarto, poi come al solito in questi casi non se ne è saputo più nulla. Oggi il Messaggero, lo voglio citare perché c'è solo sul Messaggero, Pare che questo vincitore si sia fatto vivo dove? Sull'unico mezzo di comunicazione che si utilizza ormai al mondo o in Italia per fare queste cose, Facebook. Vive ovunque da nababbo, isole caraibiche, Monte Carlo, Miami, scrive di aver fatto il botto con una schedina da 2 euro, ovviamente il telefono non può darlo. La foto di gruppo con euforie, lottiste e bottiglie stappate c'è su Facebook. L'identikit del neomilionario che vive nell'ombra dopo essersi aggiudicato una cifra che nessuno sarebbe in grado di guadagnare in 10 vite incoraggia i pensieri. I fan ne ha solo una quarantina. Ovviamente il messaggero si chiede: ma è una farsa? È un'illusione o è realtà? Per chi pensa che io sia di Bagnone si sbaglia. Già ci stavo poco prima, figuriamoci ora. Per fortuna il tabaccaio dove ho giocato non si ricorda di me, ha indicato altre persone, io ero solo di passaggio. Mi raccomando, giocate poco, io ho vinto con 2 euro. Insomma, sarà vero, sarà falso, sarà una burla. Chi lo sa? Intanto questo è apparso su Facebook con 147 milioni di euro vinti. Se è lui, beato lui, e chissà se è lui, insomma, chissà, magari è uno di Bagnone che ha vinto e vuol depistare così, insomma, bisogna essere sempre un po' dietrologi. Voglio concludere citando quello che ha fatto arrabbiare Carla Bruni, la Premier Dame, la moglie di Sarkozy. La leggo dal Secolo XIX, in omaggio al fatto che il Festival di Sanremo sia di Genova, come il Secolo, però c'è su tutti i giornali. Cristicchi, che è il cantante, canta Sarko no e Carla non va a Sanremo. Ho messo anche un accento in più magari. Carla Bruni non arriva a Sanremo, invitata illustre, si offende, annuncia forfè. Perché? Perché Simone Cristicchi porterà in gara questa canzone, meno male. Un testo ironico che prende in giro anche Sarkozy, e allora pare che Carla Bruni si sia offesa. Offesa dalla canzone di Cristicchi, a Sanremo non ci vengo. Antonella Clerici ci puntava molto, ma non ci sarà. Ce ne faremo una ragione. Allora votate il sondaggio, traffico da chiudere per lo smog nelle città. Sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori con 24 Mattino. Siamo pronti per ripartire con l'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Ah, grazie, ci anche a te. Ci sentiamo bene con il microfono? Ci sentiamo, Peter? Sì, Peter, sentiamo bene con il microfono. Lo sento un po' strano. Eccoci qua. Eccolo qua, vabbè. Ci sentiamo bene. Ripartiamo dal cibo, come sempre, dietetico. Però. Dietetico, perché stamattina si parla di verdura, di frutta e verdura di stagione. Però sempre lì. Sempre lì. La lingua batte dove il dente duole, come si dice nel proverbio. Bene. Abolito il calcio, d'altronde il lunedì parliamo di cibo. È cominciata un po' meglio, ma vedremo un po' se questo cambio di panchina ci farà risollevare il morale. Sì. Vabbè, allora, perché ritorniamo a parlare di alimentazione? Alessandro Milan mi prende in giro, noi in realtà oggi parliamo di agricoltura e parliamo di nuovo di un tema che abbiamo già affrontato da questi stessi microfoni, ma anche dai microfoni di Salvadanaio, l'iniziativa Campagna Amica della Coldiretti, perché stiamo parlando praticamente di quei mercatini a chilometro zero, gli agricoltori che si recano nelle piazze delle città per vendere direttamente i prodotti della loro terra e naturalmente a prezzi assolutamente favorevoli e convenienti per i consumatori. Sta andando così bene questa iniziativa che a Verona si è scatenata la polemica con la Confcommercio locale, perché Confcommercio dice nel comune di Verona questi mercatini a chilometro zero sono diventati troppi, stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dei negozi tradizionali. L'amministrazione comunale ha ribattuto immediatamente, comprendendo i timori, le perplessità della Confcommercio. Il comune ha sottolineato che però tutte le attività ortofrutticole nei quartieri dove ci sono anche i mercatini a chilometro zero non si sarebbero mai lamentate. Di fatto è stato un modello di successo che è venuto incontro molto alle esigenze dei consumatori che nell'ultimo anno e mezzo hanno dovuto affrontare molte difficoltà, soprattutto quando un anno e mezzo fa circa l'inflazione, lo ricorderete, era schizzata ad oltre il 4%. E allora stamattina ricordiamo un po' in cosa consiste questa attività di Campagna Amica, cosa sono i mercatini a chilometro zero, peraltro una grande iniziativa a Roma nel fine settimana a sostegno anche delle attività dell'Abruzzo. Di tutto questo parliamo stamattina con il responsabile della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti, Tony De Amicis, che saluto. Buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei. Senta, però la prima cosa che dobbiamo naturalmente monitorare è un po' anche l'effetto del terribile maltempo di queste ultime ore, perché ho letto sul Corriere della Sera questa mattina che proprio voi temete danni irreparabili per le coltivazioni di stagione, cavoli, verze, cicorie, carciofi, radicchio e broccoli. State monitorando la situazione dunque così preoccupante? Beh, direi abbastanza. Le temperature sono davvero delle temperature molto molto rigide. Le nostre colture orticole soprattutto ne risentono, soprattutto le crucifere, quelle produzioni che lei ha già citato, cavolo verde, cicorie, radicchi e broccoli ne stanno risentendo, ma abbiamo anche altro tipo di colture ancora più delicate che stanno in qualche modo risentendo di questa terribile ondata di freddo. Tutto questo lo sopporteremo perché insomma i produttori agricoli, gli agricoltori ci sono abituati, sanno fare sacrifici, sanno far tornare i propri conti, ma come dicevo con grande grande difficoltà. A proposito di far tornare i conti, gli amici, se naturalmente il passo proprio ai prezzi dalle temperature glaciali sembra lontano, ma in realtà è vicinissimo, perché quando arrivano temperature come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, i prezzi di frutta e verdura al banco del supermercato schizzano abbastanza rapidamente, perché naturalmente magari i trasporti per portarli su questi luoghi si fanno più difficoltosi. Come ci difendiamo e come monitoriamo questa situazione anche in qualità, diciamo, di consumatori, ci dà un suggerimento? Guardi, noi puntiamo sulla filiera corta. Abbiamo capito che uno dei grandi problemi per cui il prezzo al consumatore a volte è eccessivo, elevato, dipende dalla lunghezza della filiera agricola e alimentare. Infatti, quindi, è una grandissima polemica in corso quella tra voi e la grande distribuzione, la conosciamo anche abbastanza bene. Noi non vogliamo fare polemiche, noi stiamo facendo delle proposte in positivo. La stessa cosa vorrei dire anche agli amici della Confcommercio: noi non abbiamo nessuna intenzione di mettere in crisi altri comparti, noi stiamo solo cercando all'interno della filiera agroalimentare di trovare delle soluzioni affinché tutti abbiano dei vantaggi. Quindi io credo che eliminare le diseconomie, le sovrapposizioni, gli sprechi, le speculazioni, credo che convenga a tutti. Campagna Amica si è mossa in quest'ottica, dottor De Amicis, con questa filosofia. Ricordiamo in cosa consiste questa campagna e cosa sono i mercatini a chilometro zero sponsorizzati, voluti, promossi da Coldiretti. Sì, noi abbiamo una fondazione proprio per questo tipo di attività che lavora nella diffusione, nella valorizzazione della campagna, e all'interno di questa grande iniziativa stiamo lavorando molto, insieme ovviamente a Coldiretti, per diffondere la filiera corta, cioè tutte le forme di vendita diretta dal produttore al consumatore. Perché riteniamo che ci siano dei vantaggi per tutti, che ci sia sicuramente più concorrenza, riteniamo che in questo modo ci sia più trasparenza e crediamo che c'è anche la possibilità di mangiare prodotti più buoni. Questo sta avvenendo perché oggi in Italia abbiamo già 600 farmers market di Campagna Amica, diffusi in maniera omogenea in tutto il territorio italiano, dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta abbiamo dei nostri mercati che stanno riscuotendo un enorme successo. I cittadini consumatori riconoscono nei nostri mercati, nelle nostre bandiere gialle, un segno di rassicurazione e anche, direi soprattutto, un segno di autenticità rispetto a quello che loro acquistano. Ecco, lei ha detto, dottor De Amicis, le nostre bandiere gialle, perché il tema è anche questo, saperli riconoscere, perché ovviamente un mercatino aderente a Campagna Amica ha un suo disciplinare anche di attività e di azione, quindi quando per esempio magari lungo la via presso la quale abitiamo notiamo un camioncino con delle arance, non è quello il farmer market, non è quello l'agricoltore che opera secondo la vostra filosofia, appunto, non è l'agricoltore di Campagna Amica, non è quello il mercatino a chilometro zero, per cui ci dà qualche indicazione utile per poterlo riconoscere e soprattutto quanto conviene praticare i vostri punti vendita, quanto sono inferiori i prezzi per il consumatore, perché molto spesso c'è qualche dubbio anche su questo, che non sia molto conveniente per il consumatore comunque frequentare questi posti, proprio perché ovviamente si vende la verdura di stagione, ma anche l'agricoltore deve fare uno sforzo poi per organizzarsi attraverso queste, come dire, chiamiamolo così, reti, strutture commerciali. Certo, non c'è dubbio. In Intanto diciamo subito che tutti gli agricoltori che aderiscono al nostro circuito, il circuito dei mercati di Campagna Amica, e oggi sono quasi 10.000 gli agricoltori che stanno vendendo direttamente al nostro interno, si devono sottoporre a una specie di codice di comportamento, direi, cioè un disciplinare di comportamento che va dalla qualità del prodotto che devono vendere nei nostri mercati fino al prezzo. Il prodotto che viene portato è sempre un prodotto riconoscibile, che ha una origine certa, è il proprio prodotto, il prodotto del loro territorio, ed è un prodotto che molto spesso in termini di tipologia ma anche di qualità non si trova nei comuni mercati o nei supermercati o nei negozi alimentari, perché sono prodotti che nascono da quel dato territorio con quelle date tecniche tradizionali. I prezzi sono assolutamente convenienti per il cittadino consumatore, perché abbiamo prezzi che fanno riferimento a SMS Consumatori, che è un sito dove del Ministero dell'Agricoltura dove si può fare il riscontro se il prezzo del nostro mercato è differente da quello monitorato dalle associazioni dei consumatori. Rispetto a quel prezzo noi ci siamo posizionati a un meno 30%, quindi c'è un paletto molto preciso per i nostri agricoltori, e credo che questo l'hanno riscontrato anche i consumatori. Poi quindi no, anche... tanto per fare un esempio, dottor De Amicis, sì. Per esempio un chilo di zucchine, per verificare se effettivamente viene praticato questo 30%, chiamiamolo così, di riduzione del costo di sconto al farmer market, quindi al mercatino dell'agricoltore, possiamo digitare questo numero, verificare qual è il prezzo medio per quel prodotto praticato in tutta Italia, e quindi verificare se effettivamente questo 30% di sconto al banco al quale ci rivolgiamo viene fatto. Corretto, corretto. Benissimo. Corretto. E poi c'è altro, noi portiamo prodotti che sono a chilometro zero, quindi sono prodotti dal punto di vista, come possiamo dire, della sostenibilità, che hanno un valore diverso, sono prodotti di stagione, molto spesso sono anche prodotti che consegniamo a domicilio, a volte in città come nel mercato del Circo Massimo della capitale a Roma, abbiamo un servizio in bici che consegna i nostri prodotti nel centro storico. Nei nostri mercati non si producono altri rifiuti, i nostri sacchetti sono sacchetti biodegradabili, i nostri shoppers sono di cotone. E quindi in sostanza c'è anche tutta una situazione organizzativa che vuole anche proprio difendere il patrimonio ambientale, per cui è una campagna, esatto. Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in altre circostanze, appunto, che non guarda solamente, ovviamente, la prima cosa al prezzo del prodotto venduto al consumatore, ma a tutta una filosofia e tutto uno spirito. Io, dottor De Amicis, devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma sicuramente torneremo di nuovo a monitorare la vostra attività, come sta andando. Avete in mente di aprirne altri, di promuoverne altri, di mercati? Sì, noi abbiamo un grande obiettivo, quello di raggiungere 20.000 punti vendita in questo paese. Benissimo. Avremo 2.000 farmers market tra due anni e avremo altri 20.000 punti vendita di aziende agricole che già oggi fanno la vendita diretta, che però entreranno nel nostro circuito di Campagna Amica. Benissimo, grazie, buon lavoro, buona giornata. Arrivederci Alessandro. Eccoci qua. Oggi scatta la moratoria sui mutui, da oggi è possibile andare a fare la richiesta di sospensione del mutuo per le famiglie in difficoltà in banca, e quindi spiegheremo come si fa e quali banche sono pronte. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: si apre una settimana calda sul fronte delle vertenze occupazionali tra riunioni, presidi e manifestazioni. Il ministro del lavoro Sacconi sollecita le imprese a una responsabilità sociale che impedisca i ridimensionamenti, e di ieri è l'appello del Papa sulla necessità di difendere il posto di lavoro. Il presidente del Consiglio Berlusconi inizia oggi a Gerusalemme la visita di 3 giorni in Israele. Tre le direttrici di politica estera tracciate: fermare la politica degli insediamenti in Cisgiordania, dialogare con la Siria e mandare un chiaro segnale all'Iran sul nucleare. Telecom e Pirelli, pur non ammettendo responsabilità, hanno offerto di patteggiare l'accusa di corruzione nel processo per l'attività di dossieraggio illecito della security di Giuliano Tavaroli. Le due società hanno offerto 7 milioni e mezzo di euro, come scrive oggi il Corriere della Sera, come risarcimento a 3 ministeri e ai dipendenti schedati. La Procura di Milano ha accettato. Infine per il calcio, la capolista Inter non gioca, partita rinviata a Parma per neve, dietro vince solo la Roma, che raggiunge il Milan al secondo posto, rossoneri infatti bloccati in casa dal Livorno. Pareggia anche la Juventus, ieri nel posticipo il nuovo corso di Zaccheroni in casa con la Lazio, dunque inizia con un 1-1. E allora alle 8:35 minuti siamo pronti per parlare di smog, di inquinamento nelle nostre città, nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, ieri a Milano c'è stato il blocco, si discute se sia un provvedimento giusto, se è un provvedimento così una tantum, un provvedimento un po' spot, o se invece se bisogna fare di più o se invece sia una butade. Insomma, è un provvedimento giusto oppure no? Questo vi chiediamo, state già rispondendo in tanti, sono oltre 2000 i voti, il 68% di voi dice sì, il provvedimento è giusto. Voglio salutare Angelo Bonelli, buongiorno. Buongiorno. Il presidente dei Verdi. Senta, ma me la danno in sciopero della fame lei da qualche giorno? Sì. Sta continuando? Esattamente. E come mai? Perché diciamo che trasmissioni di questo tipo dovrebbero essere fatte dal servizio pubblico più costantemente, anzi non vengono mai fatte, perché agli italiani viene negata una terribile verità, che ahimè di smog si muore e muoiono tante persone. Le asme tra i bambini sono aumentate e invece... E bisognerebbe coniugare politiche emergenziali con le politiche strutturali, vale a dire fare più trasporto pubblico nelle città. Cioè lei è in sciopero della fame perché non si parla di queste cose, insomma. Non c'è informazione su questi temi tra ambiente che sono strettamente legati alla salute dei cittadini. E questo è un problema, c'è la totale espulsione di questi temi dai servizi di informazione. Senta, beh, sperando di contribuire... infatti l'ho detto in premessa. No, voglio dire, di contribuire anche all'interruzione dello sciopero della fame, no? Questo no, ma guardi che è una cosa seria. No, ma certo, lo so che è una cosa seria, Bonelli. Mi rendo conto, non siamo in cerca di visibilità. Non era per ridicolizzarla, era una battuta, insomma, spero che questo possa portare a dire, insomma, visto che c'è una visibilità anche del tema in una radio, spero che lei consideri importante, sì, voglio dire. L'ho ringraziata all'inizio. Va bene. Senta, lei è vero che vuole denunciare la Moratti, denunciare Alemanno come sindaci, insomma, i sindaci di Milano e Roma, leggevo, e perché? No, questa è stata una semplificazione delle agenzie, nel senso che noi presenteremo esposti in tutte le città dove vi sono state violazioni dei limiti di legge riguardo le PM10. Questa emergenza ambientale da inquinamento è diventata un'emergenza sanitaria. I dati, gli ultimi studi scientifici del MISA 2, di EIRE indicano, e anche dell'OMS indicano, inoltre 7.000 le persone che muoiono a causa dello smog, con un forte aumento dei processi di ospedalizzazione. E quindi da questo punto di vista non si può stare inermi, sono necessari da un lato anche provvedimenti emergenziali, ma i provvedimenti emergenziali, come dicevo prima, in assenza di provvedimenti strutturali, vale a dire le politiche di trasporto nelle grandi città, rischiano di complicare ulteriormente il problema che noi abbiamo di fronte a noi. Senta, però voglio dire, non pensa che sia questa della lei, immagino che insomma la chiusura del traffico sia un provvedimento che le piace, però dice non è un provvedimento, è un provvedimento che dovrebbe essere fatto in maniera più strutturale, cioè una cosa un po' spot. Su questo anche lei magari è d'accordo? Guardi, io penso che i provvedimenti emergenziali da soli non servono assolutamente a nulla, ma sono necessari quando vi sono limiti così gravi dei superamenti delle PM10. Insomma, stiamo parlando, io mi rendo conto che quando uno non si rende conto e non viene preso in prima persona da problemi che riguardano la salute, dice vabbè, ma che mi frega, cosa mi importa? C'è una tendenza sempre a rimuovere. Il problema è che chi amministra invece, essendo il sindaco, diciamo, primo ufficiale sanitario in una città, deve invece intervenire. Noi ieri tra l'altro abbiamo anche fatto una proposta, sentivo nei titoli di apertura del vostro telegiornale la questione della crisi occupazionale, il problema di Termini Imerese, Pomigliano d'Arco, vale a dire il rischio di chiusura delle industrie automobilistiche italiane con il rischio occupazionale. Noi abbiamo fatto una proposta, che è quella che tra l'altro si sta facendo in molti paesi d'Europa, non chiudere queste industrie e convertire la produzione di auto in produzione di autobus, tranvie e metropolitane, E le risorse possono prendere, essere prese in alcuni settori che in questo momento non sono assolutamente utili e strategici per il rilancio occupazionale del paese. Ad esempio la vicenda del ponte sullo stretto ne è una. Va bene, io vorrei salutare il professor Pier Mannuccio Mannucci. Buongiorno professore. Buongiorno. Sta ascoltando ovviamente Angelo Bonelli, leader dei Verdi. Il professore insegna a Milano, è direttore della specialità medica all'ospedale maggiore policlinico di Milano. Le chiedo professore, mi risulta che lei oggi tra l'altro proprio al Comune di Milano terrà insomma una relazione, spiegherà alcuni dati che se ci vuole anticipare. Allora Bonelli ha detto è evidente il numero di malattie legate allo smog sono in chiaro aumento, sono dati che lei può confermare? Non sono forse in aumento, nel senso che a Milano è andata peggio diciamo così negli anni 90, però sicuramente non si è inciso in maniera determinante su questa che è una causa importante, come ha detto prima Bonelli, di ospitalizzazione e anche di mortalità. Ci sono praticamente di 1000 morti all'anno, una percentuale importante, 160 sono attribuibili all'inquinamento, quindi è una cosa estremamente importante. E contrariamente a quello che si crede di solito, non è tanto un problema di malattie respiratorie, anche se è vero che ci sono dei problemi più bambini asmatici, più bronchitici cronici. La causa principale dell'inquinamento, della mortalità, dell'aumentata mortalità e ospitalizzazione legata all'inquinamento sono le malattie cardiovascolari, cioè l'infarto, l'ictus, l'embolia polmonare. Questi aumentano di circa l'1% per un aumento di 10 microgrammi per metro cubico di polvere sottile. Sa benissimo che questi aumenti si verificano continuamente durante l'inverno nelle nostre città. Tra l'altro un'altra cosa che volevo dire a proposito dell'inverno è che si è detto che la causa principale dell'inquinamento è il riscaldamento. Questo non è vero. Questo è un tema interessante perché per esempio il ministro Matteoli ha detto sì, facciamo questo blocco e poi lunedì, cioè oggi, sarà lo stesso inquinamento di venerdì. Il riscaldamento invece, come ha detto il ministro Prestigiacomo, quello potrebbe essere una soluzione, cioè abbassare di un grado il riscaldamento nelle città. Io ho sempre pensato che fosse così, professore, cioè che fosse il riscaldamento la causa più delle macchine, più dello smog, dell'inquinamento delle città. Lei invece dice di no, è proprio... No, guardi, è assolutamente sicuro che almeno l'80% è legato al traffico veicolare. Anche il riscaldamento d'inverno contribuisce, ma l'inquinamento c'è anche d'estate, per di più d'estate c'è anche... Certo. Che l'ozono, questo è una cosa sicura e non si capisce perché ogni tanto venga fuori questo discorso, anche se naturalmente è pur sempre importante ridurre. Sì, dove si può risparmiare inquinamento, sull'inquinamento va bene, però lei dice l'80% dello smog nelle grandi città è legato al traffico veicolare. Allora sentiamo, perché questa è poi la domanda che ci poniamo, serve o non serve questo provvedimento, vi sembra un provvedimento giusto quello del blocco? Sentiamo gli ascoltatori che ne pensano. Carlo da Roma. Roma, altra grande città, Carlo. Grazie, buongiorno. Si respira bene a Roma? Inspira bene lei a Roma? Splendida. Vabbè, certo, sì. Oggi è una giornata splendida. Io in realtà ho telefonato perché risiedo e sono residente a Milano. E Milano, sia geograficamente, sia da vigile del fuoco precario, sia di ambientalista e soprattutto da ciclista, vi dico che nei mesi d'inverno è una città invivibile a livello di aria respirabile. Roma è una città diversa, penso che sia a livello di posizione geografica, purtroppo Milano è un po' più sfigata, però i problemi legati all'inquinamento automobilistico si possono ridurre, io ci credo. E come? Ma, con l'Ecopass, con l'Ecopass, cioè la limitazione al centro, chiudere tutti, più mezzi pubblici, lei che farebbe? Perché mettiamoci nei panni di un sindaco. Io direi che ci dovrebbero essere un po' più di investimenti a livello di già Milano, in quanto struttura tranviaria è una città esemplare in Italia, però sì. I mezzi pubblici, io vedo tanti tram, io abito a Pieve Emanuele, una zona abbastanza limitrofa, la Pandio è milanese e lì ci arrivano solo gli autobus, non ci arriva il il 15, ma arriva fino a Ruzzano. Comunque autobus non a metano, per esempio. Ci batteremo per il 15 a Rozzano. Va bene, Carlo. Comunque un intervento più strutturale. Veniamo a Milano, Ermanno, anzi dalla provincia di Milano. Ermanno. Pronto? Lei è venuto a Milano ieri? No, perché? No, perché assolutamente sono dovuto rimanere fermo a casa e tra l'altro... Adesso... Ho lasciato acceso la caldaia, appunto perché sono rimasto a casa. Quindi ha contribuito più per la fase riscaldamento. Vabbè, dica, che ne pensa? Niente, pensavo che ho acquistato una macchina nuova, ho speso 660 euro per il filtro particolato... antiparticolato e comunque ieri a piedi sono rimasto. Vabbè, per un giorno però, domenica, adesso non... Cioè, questa era la domenica in cui lei voleva fare dei gran giri in macchina, insomma, mi sembra. Sono rimasto a casa e ho goduto della famiglia e della casa. Allora non è neanche un male, dai. Ermanno, grazie. Voglio ripartire da Daniela subito dopo il traffico. Poi voglio capire anche dal professor Mannucci, da Angelo Bonelli, alcune cose sempre sul raffronto. Ci sono state delle polemiche in questi giorni. Ovviamente chi ha detto ma è tutta una stupidata, è una volontà dei soliti catastrofisti ambientalisti che ci dicono che moriamo di smog. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, provvedimento giusto quello di bloccare il traffico anche temporaneamente nelle grandi città per lo smog. Il 67% di voi, è scesa di un punto percentuale, rimane comunque per il sì. Vorrei andare sempre a Roma, da Daniela. Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice Daniela? È giusto bloccare il traffico? Ma per me non serve a niente, noi l'abbiamo avuto per quasi 20 anni a Roma, tutti i giovedì pomeriggio, per cui non si andava a lavorare, non era di domenica come a Milano, e adesso Alemanno è la seconda stagione che non li ha messi, dicendo che lavava le strade, che io non l'ho visto, poi non lo so, forse al centro se le lava, però diversamente no. Quello che voglio dire è... che tutti contenti che Alemanno non ha messo il blocco del traffico, però poi dopo si comincia a sentir dire che è quasi sicuro che all'Euro vogliono fare il circuito di Formula 1. Ma questa è un'altra diatriba, sì, insomma, l'auto per portare il Gran Premio a Roma, dice. Allora, le polvere sottili a quel punto non esistono più, non esiste più inquinamento, non esiste più nulla. L'Eur, non so se lei lo conosce, è un bel quartiere, sì. Molto libero per andare a passeggiare perché è pieno di alberi, strade larghe, fatto diciamo di recente. E dice ci vogliono fare l'autodromo, o meglio utilizzare, insomma non le piace, però non so, guardi, se l'autodromo è più un'altra questione, insomma a livello sportivo, non so se è strettamente legata alla questione dell'inquinamento, magari dell'impatto ambientale del fare l'autodromo. Comunque Daniela, la ringrazio per il suo intervento. Vorrei chiedere al professor Mannucci, qualcuno ha detto ma piantiamola di dire questa cosa, per esempio l'aria è molto meno inquinata oggi che 30 anni fa nelle grandi città. Ecco, ci aiuti a capire. Quindi piantiamola, insomma, con questo refrain del traffico. Lei ci può illuminare su con un dato? È vero? Cioè stiamo meglio? Questo è vero, perché se non altro non c'è più è aumentato il traffico e quindi sono aumentate le polveri sottili, però indubbiamente a quei tempi riscaldamento a carbone, comunque con sostanze contenenti anidride solforosa, c'erano maggiori problemi. Io mi ricordo che c'era proprio, si depositava sul tetto delle macchine dei granellini di carbone. Quindi è vero che c'è stato un miglioramento, però è anche vero che ultimamente non c'è stato un ulteriore miglioramento rispetto a quello che c'è stato, diciamo, negli anni 80, 70. Ultimamente c'è stato un mantenimento di una grave situazione, soprattutto in città come Milano, che hanno delle condizioni geografiche obiettivamente sfavorevoli. E tra l'altro, a questo proposito, voglio leggere quello che ieri è apparso sulla stampa, dal titolo «Coraggio, sfidiamo l'apocalisse». Vivo a Milano come tutti, appartengo all'umanità, una specie destinata all'estinzione come tutte. Parrà che si esageri, ma la correlazione tra queste due circostanze si è resa particolarmente stringente in questa città della grande pianura in questo gelido mese di gennaio dell'anno 2010. E poi la fine dell'articolo, udite, Quel tempo profondo ci dice che non c'è da attendere lo squillo della tromba. La fine dei tempi si è già realizzata molte volte. Essa ci parla attraverso i fossili, le pile sedimentali, i molari di giganteschi crani primitivi. Ci dice che la storia della vita è storia di estinzioni, che sono bastati pochi secoli di caccia a mettere fine a milioni di anni di storia biologica. Ci sussurra quel tempo profondo di immense durate, di cose immani e lontane, ma anche borbotta nelle cose vicinissime, nel rantolo emesso dai polmoni impacciati dei nostri bambini nella Milano di questi strani giorni. La fine è già arrivata. Milano, per esempio, ha già finito di essere una città vivibile. Non aspettiamoci l'apocalisse dall'avvenire. L'apocalisse è un fatto quotidiano. Allora, l'autore è Antonio Scurati, che è uno scrittore, e vorrei sottoporlo ad Angelo Bonelli. Ecco, Bonelli, l'ha letta anche lei questa pagina di Scurati ieri? Sicuramente è uno scrittore molto abile, è uno scrittore anche provocatorio nel suo stile, no? Dire che c'è l'apocalisse, che è già qui, che Milano è già morta, che... ecco, quella non fa parte di quell'esagerazione che spesso viene imputata, per esempio, anche ai Verdi, lei che ne è il leader. Beh, quell'articolo non l'ho scritto io. No, però. Beh, questo sì, però. Ho capito. Io l'ho letto, sì, comunque l'articolo. È un articolo di uno scrittore che ovviamente da scrittore ha dato un suo contributo a una questione che è una questione grave. Io, se lei mi fa la domanda se penso che Milano è morta, le dico no, Milano non è morta, però penso che da persona come tutti noi dovremmo essere responsabili, dobbiamo fare in modo che l'inquinamento cali a Milano, perché alcuni invece sì, devo dire apocalittici al contrario, che dicono ma è tutto a posto, non c'è alcun problema. Lo stesso dibattito sulla questione dei cambiamenti climatici, perché c'è sempre qualcuno che dice il problema non esiste, intanto il polo nord e il polo sud si scioglie e andiamo avanti così. Guardi, allora, io penso che quindi non è un problema che Milano sia morta, non è, però dobbiamo prendere tutti quei provvedimenti, insisto, che mettano nelle condizioni i sindaci, perché è vero, i sindaci oggi sono impotenti di fronte all'assenza di politiche strutturali. Però penso che sia questo paese, e glielo dico brevemente con due punti, ha necessità di queste due questioni. Primo, di un grande piano straordinario per il trasporto pubblico nel paese, che potrebbe rivitalizzare l'industria automobilistica nel nostro paese. E secondo, di provvedimenti, chiamiamoli emergenziali, però che possono indurre a modificare gli stili di vita delle persone, per far sì, ad esempio, che le dico una cosa, si parla molto di buoni pasto nei contratti di lavoro, no? Chi ci sente sì, magari lo sa, insomma. Ebbene, io penso che in una trattativa, in un contratto di lavoro, deve entrare a pieno titolo, gratuito per il lavoratore, l'abbonamento ai trasporti. Cioè, bisogna cominciare a fare in modo e capire che ormai non si può usare sempre la macchina, anche perché non c'è solamente un problema di smog. A Milano come a Roma, le do un dato del Censis, ogni giorno un cittadino milanese perde 105 minuti della sua vita per recarsi al lavoro con la macchina, a Roma sono 135. Tradotto nell'arco di una media di vita arriviamo a 5 o 6 anni, quindi noi durante la nostra vita perdiamo 5 o 6 anni nella macchina, quindi anche un problema di qualità della vita. E in questo senso il trasporto pubblico, se è efficiente, efficace e confortevole, può aiutarci a migliorare sì, la qualità della vita oltre che della salute. Vediamo se riusciamo a chiudere con Brescia. Grazia, buongiorno Grazia, che dice? Buongiorno, io ho sentito i dati sì, messi qui a Brescia per le polveri fini e siamo sempre i più alti in Lombardia, non è Milano, è Brescia, che nella scorsa settimana aveva 133, non so, microgrammi di polveri fini. Sì, non mi faccio, non entriamo in sti dati. Mio parere, poi dopo, Sì, secondo il mio parere la causa principale qui a Brescia è il termovalorizzatore che brucia i rifiuti non solo di Brescia, ma ha bruciato anche tutti i rifiuti di Napoli e penso li bruci tuttora. Il termovalorizzatore, quello che dà energia a metà Brescia, insomma. Sì, ma no, sì, giusto per Brescia, completezza di informazione. Io da casa mia ho il fumaiolo davanti e continua a bruciare, escono dei fumi terribili e io i miei nipotini che abitano proprio sotto e che hanno sempre bronchiti, tossi, raffreddore ed è aumentate in modo esponenziale nella zona, sono aumentati i tumori alla gola. Questo è un altro tema, adesso ci apre un tema di diverso tipo, però certo inerente, però non riesco a trattarlo qui. Non so, vorrei Angelo Bonelli, ma non la prenda come una presa in giro, insomma, voglio, per quando metterà questo sciopero della fame, cosa deve servire? Non le basta questa trasmissione, ne abbiamo parlato in prime time in una radio nazionale, sì o no? Ma guardi, io grande rispetto e la ringrazio, però vorrei che le grandi trasmissioni, Ballarò, Anno Zero, Porta a Porta, si occupassero, che parlano sempre di chi più e meno contro Berlusconi, di questa gara chi è più o meno contro Berlusconi, parlassero dei problemi che riguardano la vita, perfetto, dei cittadini, perché i cittadini, se sono informati, sono nella condizione di condizionare anche i governi. Questo certo, intanto in bocca al lupo ovviamente, e grazie a tutti. Ci fermiamo, Sara Sprafico in redazione, Peter Bescapè in regia, continuate a votare, e se siete favorevoli a questo provvedimento, chiusura o no del traffico, ci sentiamo domattina.